Sì, la seconda cosa invece che ti vogliamo chiedere è rispetto al tipo di azioni che i Wobblies hanno costruito. Una delle cose più importanti secondo noi è il fatto che si parli degli scioperi come degli Wobblies come degli eventi, quindi la costruzione degli scioperi dei Wobblies, come venivano costruiti gli scioperi e perché poi e in che modo ha acquistato questa valenza, no, di sciopero come evento, in che modo veniva utilizzato. Ecco, cioè, questa mi porta all'altro grande elemento di contemporaneità dell'azione sindacale dei Wobblies, cioè il fatto che avevano strumenti di comunicazione che erano molto popolari e molto sofisticati al tempo stesso, cioè Joe Hill, Ralph Chaplin, Bread and Roses and Solidarity Forever, canzoni che resteranno per sempre nella storia, non so quante decine di edizioni ha fatto del Little Red Songbook, il libretto rosso Wobbly delle canzoni, che spesso erano parodie di inni religiosi, quindi capite, cioè immaginatevi oggi fare una cosa di questo genere, insomma, e anche allora l'effetto non era dissimile. Esatto. Sì, infatti. Fra i Wobblies c'era anche un padre Haggerty che era un pistolero eccezionale, eccetera, insomma. Anche se comunque le azioni di Wobbly erano sempre non violente contro persone per il diritto di parola e al massimo la distruzione che avveniva era distruzione di proprietà. E comunque, no, tornando, era attraverso giornali molto diffusi, reading halls, sale di lettura gratuite, giornali come Industrial Worker, Solidarity, e i poster appunto di questi personaggi che erano anche, come dire, poliedrici, no? Sapevano fare tutto, sapevano sindacalizzare e girare per il paese con il loro pin, con il mondo, le tre stelle, IWW in giro, però sapevano scrivere articoli di giornale, stampare poster. E quindi, come dire, come si diceva prima, con lo sciopero di Lawrence si vedono intellettuali radicali come John Reed o Max Eastman, che Max Eastman appunto aveva questa rivista a grande diffusione che si chiamava Masses, ripresa anche, non so, da Dos Passos, che era veramente, cioè, dobbiamo pensare che allora l'anarcosindacalismo, il socialismo e varie altre tendenze rivoluzionarie erano molto diffuse negli Stati Uniti in una maniera capillare nell'America metropolitana, insomma, di sicuro New York e Chicago erano veramente, pullulavano di idee radicali, e quindi c'era appunto le canzoni, le marce, un certo millenarismo anche, no? Pseudo-religioso, no? Cioè che comunque, insomma, c'era questa idea dell'alba nuova che sarebbe giunta, le portavano a essere grandi rappresentazioni di popolo, le donne erano molto attive, per esempio nel proteggere i picchetti e gli scioperi dalle violenze poliziesche o delle milizie assoldate dai padroni, e dileggiavano i crumiri e le loro famiglie, insomma c'era chiaramente questa grande capacità di costruire solidarietà intorno a una comunicazione multilinguistica che sapesse trarre sia spunto dall'immaginario popolare, ma anche contaminarsi con i nuovi linguaggi della stampa di massa, della grafica pubblicitaria, che allora si stavano affermando, no? Nel crogiuolo della seconda rivoluzione industriale, ecco. E quindi, vabbè, ovviamente un altro articolo della mitologia Wobbly che prendevano dalla CGT francese era lo sciopero generale, poi anche teorizzato da Sorella, da altri, come o anche Rosa Luxemburg, lei lo chiamava Massenstreik, come leva di cambiamento sociale immediato, no? Se vuoi, come l'inizio della rivoluzione, ecco, insomma, no? E quindi, insomma, non riuscirono mai a fare uno sciopero generale in America, i Wobblies, cioè, si calcola che, diciamo, 1.000.000 e qualche centinaia di migliaia di persone furono esposte, e furono membri dei Wobblies nell'arco della loro esistenza, diciamo. Loro raggiunsero appunto questo apice con 100.000 iscritti nel 1912, e poi declinarono, soprattutto vabbè, la repressione durante la prima guerra mondiale, ovviamente, cioè internazionalisti come loro. Cioè, se tu avevi una tessera della CGT o dell'USI italiana e te ne andavi in America, gli Wobblies te la riconoscevano, non dovevi neanche versare un'altra quota, capito? Cioè, questo discorso era trasferibile nel mondo, cazzo. Cioè, per dirti, cioè, cose, cioè, come il loro transnazionalismo era più avanzato del nostro, e noi viviamo in epoca di telecomunicazione istantanea, però le nostre istituzioni politiche sono lo Stato-Nazione, quindi cazzo, cioè sta cazzo di nazione continua a romperci, cioè continua a impedirci di vedere le possibilità di collaborazione. Beh, Wobblies non avevano questo problema. La repressione della Prima Guerra Mondiale falciò l'anima dei Wobblies, se non la dirigenza, cioè uccidendo e martoriando personaggi, figure molto carismatiche come Joe Hill, Frank Little ed altri. E diciamo, poi dopo la Prima Guerra Mondiale, come tante altre organizzazioni della sinistra, l'out-out di Lenin spaccò i Wobblies e aprì un'altra fase poi per il sindacalismo rivoluzionario americano, che adesso qui non stiamo a commentare. Quindi, insomma, di sicuro, ecco, dei due aspetti, forse il primo mi sembra più rilevante, cioè, oltre ovviamente a questa capacità di comunicazione popolare, di marketing politico, diciamo così, che comunque questa è quella che noi abbiamo cercato di riprendere con Chain Workers, con altre esperienze del genere. Però ecco, la fede nello sciopero generale è un po' demodé, poi insomma la parola sciopero generale ormai è stata svuotata di significato affettivo, perché non è più la paralisi della produzione, della vita sociale che si pensava, ok? Almeno oggi non è più così, e quindi l'arma è un po' spuntata. Viceversa, invece, la volontà determinata in quel congresso del 1905 della classe operaia americana, continentale, non americana, di organizzare il segmento, il 20% della classe lavoratrice americana che, come dire, subiva il peso dell'accumulazione capitalista, ecco, quello penso che lo dobbiamo rideclinare, ma quel messaggio è ancora valido oggi. Quel 20% oggi è il precariato e il cognitariato, sono donne e giovani migranti. Voglio dire, le condizioni di esclusione sociale e di disuguaglianza sono diverse, ma il grado di disuguaglianza che c'era a inizio secolo è pari a quello che c'è adesso, ok? Il gap fra classe di proprietari e classe di lavoratori, insomma, per dirla, facciamo la chiusura wobbly semplice, ok? Ciao! Ciao, Alex!